mai suona del tempo, lo sai. Sali con te, muovi la gadai. Lo dai, suona del tempo, lo sai. Sali con te, muovi la gadai. Lo dai, suona dentro te, prova, lo sai. Lo fai per me, vuole dire sai. Senti, lo dai, suona dentro te, prova, lo sai. Lo fai per me, vuole dire sai. Suona dentro te, prova, lo sai. Funky per me vuole dire sai. Se ti lo dai, suona dentro te, prova, lo sai. Funky per me vuole dire sai. Se ti lo dai, suona dentro te, prova, lo sai. Funky per me vuole dire sai. Se ti lo dai, suona dentro te, prova, lo sai. Funky per me vuole dire sai.